Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Tocca brindare qui nel Groove Master Studio, perché oggi realizziamo l'appuntamento numero 380 del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e ancora una volta buonasera e bentornati ai miei ospiti preferiti. Ladies and gentlemen, put your hands together. Silvia Barba e Francesco Tromba. Ciao, woo! Vedi come quando buonasera. Si annunciano gli ecco, ospiti. I gemelli del gol. Dei gol musicali. I gemelli delle sette note, potrei definirvi. Bene, questo è il soundcheck, tanta musica oggi e anticipo subito che nella seconda parte, dopo l'informazione degli eventi, se ce la facciamo con i nostri mezzi tecnologici e se la linea internet ci sarà d'aiuto, supporta. Ci supporta nel migliore dei modi, riusciremo a collegarci con la cameretta di un signore che si chiama Aaron Taylor, lì a Londra, protagonista della nuova scena musicale londinese, artista del quale abbiamo già parlato e del quale abbiamo già ascoltato qualcosa qui al nostro soundcheck. Perché vogliamo incontrare Aaron Taylor? Per due motivi. Per Tromba, perché è molto incuriosito da quello che succede a Londra in questo momento, dall'R&B, da questa nuova ondata di sound tipicamente black American, ma a Londra, giusto? Esatto. Invece Silvia Barba, perché vuole verificare attraverso Skype come sta messo Aaron Taylor. No? Perché sì. In fotografia non si vede spesso. No, poi ci sono pochissime fotografie, lui appare molto poco visivamente. Infatti farò una domanda proprio su questo, visto che vero, ci piace nelle guardare nelle copertine che c'ha dei pupazzetti. C'ha i pupazzi, c'ha una rosa nei suoi EP. Ha deciso così, forse sarà una strategia. Una strategia. Proprio... Abbiamo scoperto se è sposato, fidanzato o no. Glielo chiediamo. Glielo chiediamo. Dopo. Va bene, direi però di partire subito con dei pezzi da 90. Ecco. Perché? È uscito da poco, anzi con un po' alla volta sta sfornando tutto il materiale presente nella nuova produzione discografica intitolata The Search for Everything, e in questo caso noi parliamo di Wave One, ovvero la prima sfornata, la prima ondata di brani, quattro brani che vengono fuori dalla testa splendida, lucida, creativa di un altro bel ragazzo, perché anche lui non lui è male. Il bello. Ecco, il bello. Vi stiamo parlando di John Mayer, che più che bello è bravo, lasciamelo dire. A me non interessa molto come è fatto fisicamente, anzi, anche perché ce lo potrebbe confermare una star americana qualsiasi, è stato fidanzato più o meno con tutte le donne esatto, più belle d'America. Infatti una domanda e dati pure una risposta. Perché... Sì, infatti, dammela tu la risposta, con chi è stato fidanzato John Mayer? Guarda, cantanti ne ha avute... Quante ne vuole? Vabbè. Quante ne vuole? Ma le attrici? Sono informatissimo sulla lista. La più famosa forse è Kate Perry ultimamente. Kate Perry, ma Kate Perry è una... Sì, no, anche Jessica Simpson, Taylor Swift, diciamo... Jennifer Aniston. Sì. Ecco, allora... John Mayer è bravo e se le è fatte tutte. Allora, Moving On and Getting Over è il brano per me veramente adatto, ecco, non voglio dire più bello, ma quello più adatto al suono del soundcheck, e ve lo voglio far ascoltare subito, anticipandovi anche che domani sera alle 19:15 qui al soundcheck di Radio 24 dedicheremo l'intera puntata al talento e anche alla bellezza, se vuoi Silvia, di John Mayer. Moving On and Getting Over qui al soundcheck. John Mayer è tornato. John Mayer è tornato con The Search for Everything, lo sta sfornando un po' alla volta, quattro brani al mese, praticamente quattro EP, per farci ascoltare tutto quello che ha realizzato in studio con dei campioni di musica, con il suo producer Steve Jordan, che è diventato un producer accreditato proprio dopo tanti anni di militanza con John Mayer, oltre a essere uno dei batteristi di riferimento e di spicco della scena black internazionale, e poi un campione al basso elettrico, anche lui richiestissimo bellissimo perché suona con D'Angelo, suona anche lui con i Roots quando vuole, suona con tutti e si chiama Pino Palladino, ladies and gentlemen. Sono loro l'organico base del nuovo album anche quest'anno di John Mayer. Allora, che possiamo dire? Vogliamo anticipare qualcosa o ne parliamo domani di John Mayer? No, parliamone direttamente domani. Possiamo abbiamo più dire tempo. Magari appunto lui ha capito qual è la strategia ormai dei giovani di oggi, quella di utilizzare appunto degli EP, praticamente degli lui EP. Fa tre EP per promuovere al meglio il suo album, quindi farà delle release appunto di quattro pezzi al mese in modo da curare personalmente la promozione. Staremo a vedere, mi sembra una strategia interessante, contemporanea, e me la voglio ricordare, non si sa mai, Silvia. Se... Beh, per evitare sovraesposizione, per tralasciare magari dei brani dove invece si è lavorato molto su e che invece magari si possono perdere se pubblichi direttamente 14 tracce, 18 tracce. È vero, hai ragione, perché di solito si produce un album, si distribuisce un album completo, poi nelle radio va un brano. Uno, massimo due, se è proprio un disco. Invece che... io soltanto in queste, fra queste quattro tracce ne ho trovate due bellissime. Sono impazzito, e tra l'altro questo brano che stiamo per ascoltare, intitolato You're Gonna Live Forever in Me, ha fatto piangere mia figlia di commozione, che è stata una cosa bellissima anche per me, quasi si vergognava, ma quando ho ascoltato il brano per la prima volta le sono venute le lacrime, ho detto Giorgio, ma che bella questa cosa, vedi che hai una sensibilità artistica notevole, chissà da chi hai preso, non forse da nonno, da nonno. John Mayer al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Ma perché dovrei meravigliarmi? Non dobbiamo più meravigliarci, anch'io. No, mica sono nato a Chicago, a Brooklyn o a Los Angeles. Sono nato a Foggia, eppure mi considero un afroamericano di Foggia, e la musica che propongo è quella che mi ha fatto ascoltare mio padre quando ero bambino, mi ha fatto ascoltare il jazz, Duke Ellington, Charlie Parker, James Brown, e alla fine quello che faccio è... Il prodotto, la colpa è la sua in quel senso. Quindi perché dovrei meravigliarmi di un signore che si chiama Tingsek, che ha questo nome che potrebbe essere un mobile dell'IKEA. Eh sì, un mobile dell'IKEA, perché è svedese il nostro amico, eppure quello che viene fuori ha questo suono, un suono tipicamente americano, no? Sì, però io trovo più vicina la musica, cioè trovo più vicina Foggia e Brooklyn piuttosto che la Foggia Svezia. A Brooklyn, sì. Ma diciamo che Foggia è geograficamente più vicina all'Africa, quindi c'è il tam-tam primordiale, ecco, che scalpita nel nostro DNA, senz'altro siamo più vicini noi a quel tipo di pulsazione ritmica che il signore dell'IKEA. Dai, non mi sarei mai aspettata che in Svezia suonassero solo R&B, ti ma dico la verità. No? Dai, ma guarda, ci stanno delle produzioni anche norvegesi bellissime. Noi Bernhoft, abbiamo... sì. Quante volte abbiamo suonato tromba artisti geograficamente improbabili per la musica che propongono? Sì, tantissime volte, però nonostante questo c'è ancora chi ripete appunto che un certo tipo di musica va fatta solo se si è afroamericani. È una grandissima cavolata. No, poi adesso con la diffusione che c'è attraverso internet è tutto più facile. Tutto sdoganato. Però io non so molto di Tingsek, come si chiama? Ha un nome o soltanto questo codice fiscale come nickname? Allora, il nome è questo, ci è dato sapere che è questo, è svedese e è anche producer della sua musica e viene da una città che si chiama Sodra. Sodra? Sì, in Svezia, appunto. Questo è il suo quinto album, che si chiama Amygdala, è molto conosciuto in Svezia e vanta collaborazioni appunto con artisti non solo svedesi, ma appunto, come dicevamo, anche norvegesi, con il nostro Bernhoft che abbiamo programmato qualche settimana fa. Anche con Emily King ha lavorato. Tra l'altro. Emily King, Quindi comunque è riconosciuto come un grande artista. Ah, certo che è riconosciuto, se non... no. Scusatemi. Ma che lo dice a fare? Perché poi voglio dire, uno c'ha il nome dell'IKEA, del mobile dell'IKEA. No, sì, però adesso è riconosciuto e riconoscibile perché noi lo stiamo suonando al Soundcheck. Anzi, io voglio confermare il talento di Tingsek, che qui abbiamo ascoltato con Let That Go, con un altro brano tratto da questa nuova pubblicazione. Senti che titolo. Original Splendor. Questo te lo dedico, Silvia. Grazie mille. You're welcome. Soundcheck. Il suono della musica. Un altro artista del quale vi abbiamo parlato qualche edizione fa insieme a Francesco Tromba, quando collaborava con un DJ inglese chiamato Subtract. Lui si chiama Sanfa, Incomplete Kisses, il brano che vi abbiamo presentato per raccontarvi qualcosa di questo signore che finalmente ha pubblicato il suo album dopo tante collaborazioni illustri, perché il signor Sanfa, credo che sia inglese lui, non è americano? Sì, è inglese. Ecco, però l'album è stato pubblicato negli Stati Uniti e sta andando benino, probabilmente proprio perché c'è quel tocco londinese nella musica di Sanfa che tanto piace anche agli americani oggi. Sì, ed è stato presentato anche al Jimmy Fallon Show. Ma certo, e io l'ho vista la puntata. L'hai vista? Certo, perché le registro tutte. Per me è un modello, no? Jimmy Fallon, il programma di Jimmy Fallon è un modello di eleganza contemporanea nel fare televisione. Ci sono anche dei momenti un po' banali, però fatti con grande grazia. Sì, perché comunque è fatto da un personaggio che è veramente fantastico. E poi molto elegante, stiloso, sempre con battute carine, ce l'ha con Donald Trump. Chi non ce l'ha? Cioè, con gli Donald dedica Trump. Sempre l'inizio della puntata a Donald Trump, e poi quando fai un programma con una band come i Roots alle spalle non può che venire benissimo. La cosa bella è che lui va anche in giro per concerti a Village Vanguard a sentire il jazz, a sentire Christian McBride. Ma è quello che devono fare gli artisti, soprattutto chi fa televisione, soprattutto chi fa un programma come quello, un programma che ospita grandi attori e presenta le produzioni cinematografiche, produzioni discografiche, parla di teatro, di comedian, prima di parlarne le deve andare a vedere. Invece purtroppo devo dire che le star della nostra televisione si rifugiano a casa, cioè vanno in televisione a lavorare, poi tornano a casa e non escono perché hanno paura di incontrare gente. Lo so perché li conosco. E non si informano su quello che accade nella vita. Perché ci sono gli autori che vanno a vederle per loro le cose e poi raccontano. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, stavamo parlando di Sanfa, credo che questa sia la pronuncia esatta, no? Sì. Così dice Jimmy Fallon. Così dice il profeta Jimmy Fallon. Allora, sentiamo come lo ha presentato Jimmy Fallon, perché poi facciamo una pausa per andare direttamente all'informazione di Radio 24 e poi incontriamo il signor Aaron Taylor. Siamo felici, no? Sì, è vero? Sì. Collegato con noi da Londra, dalla sua cameretta, e infatti gli chiederemo anche della sua cameretta. Pare che produca lì i suoi dischi. Ecco fatto. Ecco pronti. Fatto. Allora, sentiamo Jimmy Fallon che ci dice di Sanfa. Vai Jimmy, vai, sentiamo. Ecco, già mi sento bene. With some of the biggest names in music and is out with his highly anticipated debut album Process on February. Process è il titolo del disco di Sanfa. No one knows me like the piano. Sì, vabbè, ma noi ascoltiamo Cora Sings con Sanfa al soundcheck di Radio 24. Grazie Jimmy. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte del soundcheck di Radio 24? Eccoci qui dal Groove Master Studio e siamo felicissimi con Silvia Barba e Francesco Tromba a incontrare, come ha annunciato, uno dei nostri preferiti in questo momento. Stiamo parlando proprio della nuova generazione dell'R&B lì direttamente da Londra, che ormai da tempo sta sfoggiando delle novità meravigliose. Quindi, ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signori, collegato con noi via Skype dalla sua residenza londinese, Mr. Aaron Taylor, how are you doing? I'm good, thank you. Nice to meet you, nice to talk to you. Oh sì, anche noi siamo molto felici di parlare con Aaron Taylor e abbiamo diverse cose da chiedere a questo signore. Intanto voglio fare le mie congratulazioni. So congratulations for Still Life. We like a lot your production. Thank you, it means a lot to me. Really means a lot. Ecco, per lui significa molto, certamente, perché per un giovane artista da indipendente arrivare in altre parti del mondo non è una cosa facile. So tell me, how can you organize your job? You are an artist, at the same time you are a musician, composer, but also producer and promoter of yourself. Sì. So I think in this day and age it's quite important to be quite self-sufficient. You need to, before there's a major label involved, before anyone takes any interest, you need to prove that you can do this yourself. And I'm the sort of guy also that I try to just start. I don't wait. Sì, dice che è molto importante per un artista, diciamo, al debutto essere autosufficiente, quindi prima di approdare a una multinazionale e di fare un passo importante, naturalmente uno deve fare tutto da solo. So, may you introduce your album Still Life, your EP? Yeah, Still Life is my first EP. It came out 1 year ago today, actually. It's the first anniversary. It's a project I actually made in my bedroom, very, very simple. I just started with 3 songs and I just simplified it and I just tweaked it for a few months. And when I felt it was ready, I just put it out. Tell me something. So you said that you produced the album, the EP, the first 3 songs. Ha detto che le prime 3 canzoni le ha prodotte nella sua cameretta da letto. You produced the song in the bedroom. It's right? Yes. Ah. Yep. And I recorded it. And, you know, a lot of people do that, but it's not usual for funk or soul. You know, normally you go to a studio and you have all the live instruments, but yeah, we just one instrument at a time in our bedroom. Ecco, sì, dice, non è una cosa che si fa spesso quando si registrano produzioni funk e soul, ma molti protagonisti della scena contemporanea registrano, lo sappiamo benissimo, una traccia alla volta da soli nella propria cameretta. It's good, no? In the bedroom. Maybe next time you can produce the album in the bathroom. That can be another kind of experience, no? Yeah, it's worth a try. Who knows? Direi, ragazzi, di ascoltare subito Easy from Still Life. Aaron Taylor è collegato con noi via Skype. Il brano si intitola Easy, qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, lo abbiamo scoperto e lanciato qui su Radio 24 al Soundcheck con questo brano intitolato Breakfast. Aaron Taylor è collegato con noi dalla sua casa studio, anzi dalla sua cameretta studio. Ce l'ha detto che praticamente i primi brani li ha prodotti nella sua camera da letto, e siamo felici di incontrarlo sorridente, e abbiamo anche scoperto una cosa. So perché, quindi, il signor Taylor, oltre ad avere buon gusto per la musica, anche buon gusto per le donne, perché sua moglie è italiana e di Roma, e noi queste cose a te interessano, Silvia, che fai anche un po' di gossip artistico. So congratulations, your wife is Italian, is from Rome, right? Yeah, that's right. Yeah, that's right. And she's a singer. Posso dire il nome? May I tell her name? Yeah, Angela Ricci, no? Why not? Sì, yeah. Sì, that's correct. Sì, allora la salutiamo perché è una tua collega, una cantante anche lei, Silvia. A buon gusto, Aaron. Bravo, infatti hai capito. Allora, Tromba, dai, che cosa vuoi chiedere, Aaron? Sì, ti volevo fare una domanda appunto su come è difficile attrarre l'attenzione da indipendente. So, how much is difficult for an independent artist to raise up attention around his music? Do you have any communication plans, or just you put your music on internet? The best way is just to be persistent. You have to really research the best people to send your music to. There's a lot of blogs that write about music, and so you have to research, you know, the email addresses of the best music journalists that are writing about your style of music, and be very patient as well. Sì, bisogna essere pazienti e perseveranti, bisogna rintracciare gli indirizzi giusti, le email dei giornalisti e far girare il proprio nome nei blog più importanti di musica. È quello che sta facendo e continuerà probabilmente a fare Aaron Taylor e anche gli artisti della nuova generazione che ancora non hanno un contratto con un'etichetta importante, con una multinazionale. Fra i brani importanti scritti da Aaron Taylor ultimamente c'è una bellissima canzone, I Love This Composition, called If I Had to Write a Song About You. I love this song and I love the arrangement. Do you write music? Do you write your arrangements? How your method in the studio? Qual è il tuo metodo di lavoro? Scrivi gli arrangiamenti, scrivi musica? I tend to record rather than write out notation. So I tend to demo the parts with a keyboard, normally by ear. And then I play it to session musicians. I play it back to them, and we try and recreate what I've done. And I just get them to do it better than I've done it. especially when it comes to strings and horn arrangements. I just demo it with a keyboard and then they reproduce it. Ah, absolutely. Eh sì, lavora con una metodologia contemporanea, ovvero quella di realizzare i demo sul computer, di entrare in studio, di suonare quello che ha realizzato ai musicisti, che naturalmente replicano poi sui loro strumenti le idee di Aaron Taylor, ed è quello che ha fatto anche con la sezione di fiato, la sezione di archi. Ha scritto lui le basi e poi i musicisti hanno fatto la loro orchestrazione, il loro adattamento per registrare questo brano che vi presentiamo qui al Soundcheck. Aaron Taylor, protagonista di If I Had to Write a Song About You. Bellissima canzone, complimenti. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Una delle nostre preferite, protagonista della scena contemporanea di Chicago, dell'hip hop di Chicago, che sta andando fortissimo. Lei si chiama No Name, produzione di Cam OB, e lei appartiene, lo abbiamo già raccontato, al circuito che ruota intorno a una figura ormai leggendaria come quella di Chance the Rapper. Collegato con noi da Londra, Aaron Taylor. So Aaron, do you know No Name? You like her? I love No Name. I think she's one of the most exciting rappers that came out last year. Eh sì, è una delle rapper rappresentative proprio di questa di questa stagione, della passata stagione. E fra quelli che noi stiamo sponsorizzando qui al nostro soundcheck, che stiamo sostenendo proprio della scena di Chicago, c'è anche un ragazzo che si chiama BJ, the Chicago Kid. So what do you think about the Chicago scene right now? A lot of the most exciting music is coming from. You have BJ, the Chicago Kid, you have No Name, you have Chance the Rapper, you have other rappers, I think his name is Saba, I forget how to say it properly, but he's really good as well. And I actually got to meet BJ, the Chicago Kid, last year. He performed in London at the Jazz Cafe, and I was fortunate enough to do a support slot. How was the gig? Com'è stato il concerto di BJ di Chicago Kid lì a Londra? It was great. He had a lot of stage energy. There was a good interaction with the crowd. And he's a fantastic singer. And even live, he's fantastic. Eh sì, è un cantante eccezionale, anche dal vivo funziona molto bene. A proposito di live, Aaron, so what do you think about your gig? Are you ready for performing maybe in Italy too? Why not? Sei pronto per fare dal vivo qualcosa? Yeah, I'd love to. At the moment, we're sort of just working on the live show a bit more, but we've done a few shows and the response has been very positive. Eh sì, perché ci sono degli artisti che sono soltanto degli animali da studio, lasciatemi passare questo termine. But are you a performer or just a studio guy? I prefer the studio. I love to create. But I do perform as well. Sì, gli piace esibirsi, ma in questo momento è molto concentrato sulla produzione, gli piace il lavoro in studio. Io ho una domanda per Aaron, perché abbiamo parlato appunto dei social media, del modo di promuoversi, di autoprodursi e di autopromuoversi, però lui ha fatto una scelta ben precisa, che è quella di non comparire nelle copertine dei suoi EP. Gli voglio chiedere proprio questo, ovvero perché non vuole mostrarsi e quindi arrivare con più difficoltà al grande pubblico. Aaron, in this social era, a new talent needs to get visibility, you know, for arriving to the public. Sure. But why did you choose an artwork faceless? Why don't you want to show yourself, but only in your music? It was interesting. At first, I really wanted the focus to be on the music. And I feel in this day and age, unfortunately, a lot of music is ignored because of maybe what the person looks like. Mm. We're sort of a lot of people listening with their eyes and their ears. And so I just really wanted there to be the only thing you see is a picture, an interesting picture, and then you listen to the music and you make your own impressions, and how the person looks is the least important thing. about the music. È stata proprio una scelta artistica, ha deciso di non apparire perché voleva che la gente ascoltasse la sua musica e quindi senza nessun tipo di condizionamento. Dice, cioè, l'immagine oggi, il mondo dell'immagine è molto forte, ma io ho capito da dove arriva la domanda di Silvia, perché noi stiamo vedendo il nostro Aaron Taylor qui su Skype e possiamo confermare che è anche un bel ragazzo. Quindi I think it's not a good idea, Aaron, believe me, because you look great, so why not next time? Maybe you can show your abdominals or like D'Angelo years ago. I agree. I'll go to the gym a bit more. Okay, thank you very much, Aaron. Noi ti salutiamo. We love you e speriamo di vederci prestissimo, quindi non perdete occasione di ascoltare Aaron Taylor. Il brano si intitola Lay My Troubles Down. Thank you very much, Aaron. See you soon. Grazie, Gigi. Ciao. Grazie a te, Aaron. Ciao. Soundcheck. Il suono della musica. The Great City, tratto da Fans Low Ride, anche per ricordare che mercoledì torneremo su Rai 5 insieme a Francesco Tromba per variazioni su tema. Infatti The Great City, scritto insieme a Sebi Burgio, è proprio la, come dire, la sigla di questo programma. Abbiamo realizzato 25 episodi, non so a che punto siamo arrivati, però insomma siamo quasi alla conclusione. A marzo terminerà la messa in onda. Sì, siamo verso la fine, purtroppo. Siamo verso la fine, ma ci sarà una nuova edizione, non quest'anno, ma sicuramente nel 2018 torneremo, questo è quello che mi ha garantito la direzione di Rai 5. Staremo a vedere, noi siamo pronti a tutto e siamo pronti, io sono anche pronto per partire in tournée, ormai lo sapete, la notizia è stata ufficializzata. E dove possiamo venire a vederti? Adesso ti dico le date, ma prima di annunciare le date volevo chiudere l'argomento Aaron Taylor, ecco. Perché ho visto Silvia sorridente per tutto il tempo della intervista via Skype. Sì, vedi, ho anche il ventaglio un po' per riprendermi. Mm. Beh, un bel ragazzo, si può dire, intelligente, un bravissimo musicista, la musica che fa ci piace. Che devo fare? Anche la moglie ci piace. A te sì, l'abbiamo anche, vista. L'abbiamo vista, una bellissima ragazza. Lui l'ha detto, Angela Ricci, una brava cantante, ma anche una bellissima ragazza. E quindi a volte Dio li fa e poi li accoppia. Una bella pure. Coppia. È una bella coppia. Quindi una volta un mio amico fece una battuta terribile parlando di due cantanti famosi italiani, non dirò i nomi, che si erano fidanzati e disse: quando fate i cuccioli me ne date uno? Ah, bellissimo, vabbè. E quindi anche nel caso di Aaron Taylor e della moglie, no? Sono due cantanti belli e bravi, se fanno che i cuccioli, gli vuoi dire? Ne produciamo subito uno. Va bene, torniamo allora ai concerti. Sì, stiamo per partire per fare questa nuova tournée, tra l'altro contentissimo di ospitare una delle mie voci preferite, una bella ragazza, ecco, anche in questo caso una bella ragazza ma con una voce veramente spettacolare, si chiama Joanna Titters, sarà in tournée con noi a partire dalla fine di marzo e questi sono gli appuntamenti e vi aspettiamo perché parliamo anche di una cosa importante come Sounds for Children, progetto che stiamo curando per UNICEF. Stiamo lavorando su questo progetto ormai da quasi 2 anni, è terminata la fase sperimentale, quindi tocca andare sul campo e portare tutti i messaggi positivi della musica anche in situazioni a rischio, situazioni sociali particolari, per portare il sorriso sul volto di bambini che soffrono e comunicare la bellezza della vita attraverso la musica. Vi sono piaciuto? Bravissimo. Ah, grazie. E l'iniziativa è molto importante. Forse io e Tromba ti sosterremo nelle date dove sarai con. Non dovrei soltanto sostenere, voi non lo sapete, ma siete già inseriti nel progetto. Ah, ecco, vedi. Siete già ingaggiati. Con piacere. Perché il progetto si chiama Sounds for Children United Musicians for UNICEF, quindi musicisti uniti per UNICEF, e ne parleremo anche qui al Soundcheck. Intanto le date. Volete venire al Bad King Club il 29 marzo a Perugia? È scomodo? Perché no? Oppure il 31 marzo andiamo in uno dei miei club preferiti, che è il Moro di Cava dei Terreni, e lì proprio le suoniamo di brutto. Forse faremo anche il 30, adesso ci stiamo organizzando perché ci sono molte richieste, faremo forse una doppia data. Il 1 aprile andiamo giù dalle mie parti, a mattinata a Foggia, al Mad Mall Cultural Store. Mi piace il nome di un posto così, in provincia di Foggia. E quindi tutta la Telesforo Family in prima fila. Beh sì, verrà mamma e mi farò portare, certo, la sua famosa parmigiana di melanzane. Il 5 di aprile arriviamo a Roma all'Auditorium Parco della Musica, data importante perché ci sarà proprio, come dire, i pezzi da 90 dell'UNICEF saranno presenti, sono già emozionato. Il 7 aprile a Ferrara al Torrione Jazz Club, bellissimo, Ferrara Jazz Club. 8 di aprile dovremmo chiudere, anzi chiudiamo, al Blue Note Jazz Club di Milano. Vabbè, ci penso, tromba, tu poi mi fai sapere. Posso venire in tour con voi? Vieni in tour con me, ti porti la telecamerina e facciamo la documentazione. Ah, è bellissimo, dai. Allora, vi salutiamo, ci risentiamo domani 19:15 su questi schermi qui al Soundcheck di Radio 24, e grazie ancora una volta, ragazzi, siete eccezionali. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao a tutti, grazie.